Sono le 8:01 dall'orologio di Rock FM. Pane, burro e rock and roll. Qui c'è l'Ariele, buona giornata. La tua colazione, rock. Compagnia di Mr. Trombetta e Roberto Fricantoni. Ogni giorno alla mattina ascolta. Che vuole incatenarsi. Ma questa è un'altra questione. Puntata 208. Io lancio un appello al DJ Edo, mi stessi ascoltando. Edo, mi hai sfasciato il computer! È colpa tua, io lo so! Mannaggia! Il computer che ho dentro le scalette, non so più come fare! Disperazione per l'inizio della seconda ora di PBR di quest'oggi. Quel segno un tecnico, ma non Fricantoni. Uno vero. Sai quelle storie che fanno i PC quando non trovano l'hard disk? No, dai, non fate così i PC, per favore. 335-100-7777 è il numero di SMS. Ariel, chiocciola, radiorockfm.com e la mail. Questa è la vostra trasmissione mattutina di riferimento. Wow! Signore e signori, serviamo Led Zeppelin. Può interessare? Ula, la love. cosa fa? Cosa aspetti, fa? DJ Ariele, aspetti, mi faccio controllare. Il giornale. Sì, ho qua il giornale selezionato dalla redazione di Pane, Burro e Roccolò. Dai, allora, sì, infatti, e dal resto della redazione, guardi, soprattutto, sì, c'è la mano di Isaac. Sì, qui. Sì, sì. Beh, non politica. Non politica. Non sport. No. Ma attualità. Attualità, strano ma vero. Esatto. Sigla! Rapina il supermarket e poi si lamenta per il magro bottino. Eh sì, l'Italia sta attraversando un periodo di profonda crisi economica e di questo se ne stanno accorgendo sia gli onesti cittadini che quelli meno retti. Un malvivente che ha portato a segno una rapina ai danni della cooperativa di consumo a Casanova di Valmorea, presso Como, si è lamentato per il magro bottino. È riuscito a realizzare soltanto 20 euro di malloppo. La sua reazione è stata però paradossale. Il ladro si è rivolto stizzito alla commessa. E cos'è questa miseria? Il fuorilegge, un solitario armato di pistole con una mascherina bianca sul volto, una di quelle usate per non respirare lo smog, è entrato in azione poco prima della chiusura serale. È entrato mentre ero in un altro locale, ha raccontato la responsabile della Coop, e mi ha colta di sorpresa alle spalle puntandomi l'arma. Ho preso l'unica banconota che avevo in cassa e gliel'ho consegnata. Lui ha risposto con quella frase lì, allungando il collo per vedere se fosse vero. Poi, brontolando sottovoce, si è allontanato con un'auto scura. Oh, ma cos'è sta miseria? 20 euro. 20 euro. In bolognese cosa avrebbe potuto dire? Socia, che sfiga, solo 20 euro. Sei fuori? Benvenuti nell'inferno dei Siouxsie and the Banshees. Questa era Christine, 8 e 12 minuti. Ogni puntata di Pane, Burro e Rock and Roll piglia poi delle pieghe tutte sue. Abbiamo sentito nella prima ora Luca, che di lavoro, tra l'altro oggi sotto la neve, mi mette a posto gli impianti eolici. Ma qualche giorno fa non ho fatto tempo a parlare con Roberta, perché anche lei aveva un lavoretto buffo da fare. Buongiorno Roberta. Buongiorno a te. 27 anni, da Firenze. Ho parlato pochi minuti con Roberta, ma siamo in precariato spinto, ci si arrabatta Roberta. Un pochino sì. Ma è importante, insomma, bisogna sapersi vendere. Ah sì, bisogna fare lavori particolari ultimamente. Roberta mi chiedeva, te le ho detto, ti va di andare in diretta a parlare? Le ho detto, ma se ti sembra interessante, guarda Roberta, qui a Pane, Burro e Rock and Roll tutto è interessante, non so se te ne eri mai accorta, ma il messaggio dell'altro giorno mi aveva particolarmente colpito. Roberta scriveva, ciao, sto andando a fare l'air model. Sì. Io ovviamente sono stato rapito subito da questa stupidata, cioè la modella dei capelli. Sì. Ovvero andare a farsi tagliare i capelli non solo a gratis, ma pagato. Pagata. Sono contento di non averti chiamato l'altro giorno quando ci stavi andando, perché scopriamo un'altra cosa. Non è che uno piglia e va a fare l'air model così. No. Deve avere le sue porche referenzialità, ce l'ho fatta a dire. Non ti hanno presa? No. Ho i capelli troppo ricci, troppo non abbastanza lunghi. Hai capito? Vanno a fare dei tagli assurdi, cortissimi, sbilanciati. Cioè, quindi c'era un casting per farsi tagliare i capelli? Sì. Oh, sti qua. E c'era tanta gente? No, eravamo solo in 9, ne hanno prese 4. Ma va. E di un pelo. Il capello riccio non interessava. No, per la conciatura era troppo corto, e per il taglio era troppo riccio. Ma guarda un po'. Perché fare quei tagli, mamma mia. Erano orrendi? Insomma. No, ma sfogati pure, Roberto. Dillo. Francescano, sbilenco però. E allora, diciamolo. Non erano in grado di capire la bellezza del tuo capello riccio. Infatti, no. Tra l'altro lanciamo un appello, ci fosse qualche parrucchiere interessato al capello riccio. Infatti. E un po' corto, Roberta è raccomandata da Pane, Burro e Rock and Roll. Grazie. Comunque mi piaceva molto l'idea di... Peccato che non... Guarda un po' te. Infatti, no, anche... Se ritrovo l'annuncio di quell'agenzia non ci vado neanche più. Tra l'altro mi ha interessato anche perché io ho un rapporto stranissimo col parrucchiere. Io non ci vado. Io sono dell'idea che se il signore ci ha dato dei capelli che crescono, devono andare. Così. Avranno il loro senso, prima o poi lo troveranno. Esatto. Però l'air model potrei farlo, se mi pagano, insomma. Infatti. Una pettinatura col ciuffo potrei anche farla. Tra l'altro per fare biondo. Potrei farmi biondo, esatto. Potrei anche star bene biondo, chi lo sa. Un po' la Billie Idol, qualcosa un po' shocking. Tra l'altro Roberta non è una che si ferma, perché anche oggi mi vai a fare un altro lavoro? Sì, oggi vado a fare la promotrice. Così vi voglio. Così belli preparati, pronti a saltare da un treno all'altro. Promotrice di cosa? Di fotocamere digitali. Oh. Ne sai qualcosa? Un po' studiato, ma... Corsi di preparazione? Sì, insomma, fotocopie da internet. Telecamere digitali? No, fotocamere digitali. E stampanti, sì. Se fosse all'ascolto qualcuno di Firenze interessato alle foto... Vengo a trovare oggi. Facciamo un po' pubblicità, metti che ci dai la percentuale. Fotocamere digitali di che tipo? A buon prezzo? Le stampanti, quelle che stampano direttamente le fotografie. Ah, piccoline? Foto piccole. Venti a trovare, oggi c'era poca gente. Oh, se vi va 335-100-7777, se può interessare vi mettiamo in contatto diretto con Roberta, che vi fa il prezzo, quello di favore, quello del rock and roll. Senti, poi sei andata a tagliarti i capelli o te li sei tenuta così? Le sono tenuti così. Bravo, hai fatto bene. Le apprezzo così come sono. Hai fatto bene. Roberta, siamo in squadra con te, grazie. Grande. Per la testimonianza. Ciao. Ciao. Salutiamo una radioascoltatrice che, sentendo Siouxsie and the Banshees, dice: io ho il collare. Allora ti dedichiamo anche questa, via. Acustica, però. una personal Jesus acoustic, così, male. 8 e 20 minuti primi, prima di occuparci del testo attitudinale di quest'oggi, la domandina, resterei sul pezzo del precariato, aperto dalla nostra radioascoltatrice Roberta, alla quale segnalo tra l'altro che Enrico è interessato a una batteria per la sua fotocamera. Sì, sì. Se smazzi anche quelle cose, faccelo sapere che vi mettiamo in contatto. Dicevo, in tempi di precariato anche noi di Pane, Burro e Rock and Roll abbiamo strade alternative, soprattutto ce le ha Roberto Fricantoni grazie al canale satellitare Tele Antoni Market Shop, dove mettiamo in vendita oggetti appartenuti al maestro. Collegamento con il canale satellitare, via! Buongiorno Tele Antoni Market Shop, come posso aiutarla? Tele Antoni Market Shop, Tele Antoni Market Shop, Tele Antoni Market Shop, Tele Antoni Market Shop, Market Shop, Tele Antoni Market Shop. Ed è arrivato il momento dei telefoni roventi, scottano le rine alla Tele Antoni Market Shop, perché anche quest'oggi un'offerta sensazionale. Ma siamo su, stiamo signore su. E signori, vendiamo a prezzo stracciato questo set da 22 biglietti da visita che il signor Antoni custodisce ormai da anni nel suo consumato portafoglio che tiene sempre con sé. Reliquie. Guardi, ha detto la parola esatta, non sono biglietti da visita, sono reliquie che quest'oggi diamo al prezzo stracciato di 15 euro per un set di 52 biglietti da visita. No, lei è brevissima, stiamo un po' più su. 15 euro per questo set di biglietti da visita, tra i quali potrete trovare l'elettrauto del maestro Fricantoni. Guardate, una dozzina di alberghetti dove il signor Antoni si è appartato, forse per le sue notti di fuoco, chissà per quant'altro, le stanze dove si è rinchiuso a comporre le grandi poesie che hanno fatto grande quest'uomo. Vero. Grazie alla Tele Antoni Market Shop, chiamando immediatamente potrete aggiudicarvi questo set di biglietti da visita veramente imperdibile. Allora, ma 20 attenzione. Abbiamo detto, 20 euro? 15 euro, maestro Antoni, ne ha bisogno? Ne ha bisogno? Sì. E allora facciamo 15, fidi di me. Ma attenzione, perché vorrei che la regia zoomasse su questo biglietto da visita, Lello Marino. Sì. Forse loro a casa non sanno chi è Lello Marino. Lello Marino, cantautore, amico intimo di Roberto Fricantoni, gli ha donato il suo biglietto da visita e oggi soli 15 euro potrà essere vostro. Il grande artista della melodia partenopea, Lello Marino, verrà probabilmente a casa vostra. Basterà dire: io ho il biglietto da visita, l'ho comprato alla Tele Antoni Market Shop. Un ossordato innamorato, uno o sole mio, scatterà, riempirà la vostra giornata. Vienne mensuonno, non dimentico. Come la cantava Vienne mensuonno, Lello Marino? Lei lo conosce personalmente? Guardi, no, in verità no. Ha solo il biglietto da visita? No, solo il biglietto da visita. Che mi è arrivato via posta. Ma io lo conosco, gli amici lo chiamano dalla sua bravura Lennon Marino. Signori in regia, gentilmente, non ci interessa nei vostri commenti, ci interessa solo sapere se hanno confermato questa richiesta di 15 euro per il set di biglietti da visita. No. No, peccato perché era un'offerta veramente incredibile. Anzi, a proposito, c'è il portinaio che sta suonando perché è ritornato indietro il camion con gli scaffali che abbiamo spedito settimana scorsa. 3.000 euro, i vinili di collezione del maestro Antoni. Sì, era una cosa importante. Si sono accorti che erano di cartone. Sì, e che dentro non c'erano i vinili. C'è bisogno di dirlo in diretta? No, è solo che avrei bisogno di una mano per scaricarli. Prego Antonio, io continuo con la diretta. Mi fido di lei, la regia. Continuiamo. Telefoni matti alla Tele Antoni Market Shop. Market Shop, Tele Antoni Market Shop. È veramente incredibile quanto il mondo del rock possa entrare veramente in reparti impensabili. Tutto sì. È rock, maestro Antonio. Ma sì, le diramazioni sono incredibili. La domanda di quest'oggi, che entrerà di diritto nella testa attitudinale, sì. È: può un inventore essere rock? Ma naturalmente, soprattutto se questo inventore ha determinato la storia della chitarra rock. Bravo, si chiama Les Paul. Ah, la famosissima. Al secolo... No, no, è proprio il nome del signore. Sì. Lester William Paulfus, che poi si faceva chiamare Les Paul, che era un po' meglio. Ha inventato negli Stati Uniti il celebre modello di chitarra Les Paul. Della Gibson. Ma, curiosità di quest'oggi, forse non tutti sanno che, ipotesi A, nella classifica dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi, redatta dalla famosa, celeberrima rivista Rolling Stones, è posizionato al posto numero 46. Oppure, ipotesi B, dichiara di non essere in grado di suonare alcun strumento. O infine, ipotesi C, fu il batterista di Frank Zappa. Quale di queste ipotesi sul signor Les Paul è vera? La soluzione, la risposta esatta, a poco dopo, e cioè a fra poco.